ad alta voce, leggere il Decamerone. Bruno e Buffalmacco imbolano un porco a Calandrino. Fannogli fare l'esperienza da ritrovarlo con galle di gengiovo e con vernaccia. E a lui ne danno due, l'una dopo l'altra, di quelle del cane confettate in aloe. E pare che l'abbia avuto egli stesso. Fannolo ricomperare, se egli non vuole che alla moglie il dicano. Non ebbe prima la novella di Filostrato fine, della quale molto si rise, che la reina a Filomena impose che seguitando dicesse, la quale incominciò. Graziose donne, come Filostrato fu dal nome di Maso tirato a dover dir la novella la qual da lui udita avete, così né più né men son tirata io da quello di Calandrino e dei compagni suoi a dirne un'altra di loro, la qual, siccome io credo, vi piacerà. Chi Calandrino, Bruno e Buffalmacco fossero, non bisogna che io vi mostri, che assai l'avete di sopraudito. E perciò, più avanti facendomi, dico che Calandrino aveva un suo poderetto, non guari lontano da Firenze, che in dote aveva avuto dalla moglie, del quale, tra l'altre cose, che su vi ricoglieva, n'aveva ogni anno un porco. E era sua usanza sempre colà di dicembre d'andarsene, la moglie ed egli, in villa, e ucciderlo e qui di farlo salare. Ora, avvenne una volta tra l'altre che, non essendo la moglie ben sana, Calandrino andò egli solo a uccidere il porco. La qualcosa sentendo, Bruno e Buffalmacco, e sapendo che la moglie di lui non v'andava, se n'andarono a un prete loro grandissimo amico vicino di Calandrino, a starsi con lui alcun dì. Aveva Calandrino, la mattina che costor giunsero, il dì, ucciso il porco, e vedendoli col prete, gli chiamò e disse: «Voi siate i benvenuti. Io voglio che voi veggiate che massaio io sono». E menateli in casa, mostrò loro questo porco. Videro costoro il porco esser bellissimo, e da Calandrino intesero che per la famiglia sua il voleva salare. A cui Brum disse: «Deh, come tu sei grosso! Vendilo e godianci i denari e ammogliata di che ti sia stato imbolato». «No, ella non crederebbe e caccerebbomi fuor di casa. Non vi impacciate, che io non farei mai». Le parole furono assai, ma niente montarono. Calandrino gli invitò a cena, cotale alla trista, sicché costor non vi vollon cenare e partirsi da lui. Disse Bruno a Buffalmacco: «Vogliagli noi imbolare stanotte quel porco? O come potremmo noi?» «Il come ho io ben veduto, se egli non muta di là ove egli era testè». «Adunque facciallo, perché non faremmo noi? E poscia ce il goderemo qui insieme col domine». Il prete disse che gli era molto caro. Disse allora Bruno: «Qui si vuole usare un poco d'arte. Tu sai, Buffalmacco, come Calandrino è avaro e come egli beve volentieri quando altri paga. Andiamo e meniamolo alla taverna. Quivi il prete faccia vista di pagar tutto tutto per onorarci e non lasci pagare a lui nulla. Egli si sciurmerà e verràci troppo ben fatto poi, perciò che egli è solo in casa. Come Brun disse, così fecero. Calandrino, vedendo che il prete non lo lasciava pagare, si diede in sul bere. E benché non ne li bisognasse troppo, pur si caricò bene. E essendo già buon'ora di notte, quando dalla taverna si partì, senza volere altramente cenare, se ne entrò in casa. E, credendosi aver serrato l'uscio, il lasciò aperto e andossi a letto. Buffalmacco e Bruno se ne andarono a cenar col prete e, come cenato ebbero, presi i loro argomenti per entrare in casa Calandrino, là onde Bruno aveva divisato, là chetamente n'andarono. Ma, trovando aperto l'uscio, entrarono dentro e, ispiccato il porco, via a casa del prete nel portarono e, ripustolo, se ne andarono a dormire. Calandrino, essendogli il vino uscito del capo, si levò la mattina e, come scese giù, guardò. E non vide il porco suo, e vide l'uscio aperto. Perché, domandato quello e quell'altro se sapessero chi il porco s'avesse avuto, e non trovandolo, incominciò a fare il rumor grande. «Oisè, dolente sè, che il porco gli era stato involato!» Bruno e Buffalmacco, levatisi, se ne andarono verso Calandrino per udir ciò che egli del porco dicesse, il quale, come gli vide, quasi piagnendo chiamati, disse: «Ohimè, compagni miei, che il porco mio m'è stato involato!» Bruno, accostatoglisi pianamente, gli disse: «Maraviglia che sei stato sabio una volta!» «Ohimè, che io dico ma dovevo!» «Così di grida forte, sì che paia bene che sia stato così!» Calandrino gridava allora più forte e diceva: «Al corpo di Dio che io dico ma dovero che gli mi è stato involato!» ben di, e si vuol ben dir così, grida forte, fatti ben sentire, sì che egli paia vero. Tu mi faresti dar l'anima al nemico. Io dico che tu non mi credi se io non sia impiccato per la gola che egli mi è stato involato. Beh, come deve potere essere questo? Io il vidi pure ieri costì. Credimi tu far credere che egli sia volato? Egli è come io ti dico. Può egli essere? Per certo egli è così, di che io son diserto e non so come io mi torni a casa. Moglie, ma non mi crederà. E se ella il mi pur crede, io non avrò uguale pace con lei. Se Dio mi salvi, questo è mal fatto, se vero è. Ma tu sai, Calandrino, che ieri io ti insegnai dir così. Io non vorrei che tu a un'ora ti facessi beffe di moglie ta e di noi. Calandrino incominciò a gridare e a dire: «Beh, perché mi farete disperare e bestemmiare i Dio e i santi e ciò che v'è? Io vi dico che il porco m'è stato stanotte involato!» Disse allora Buffalmacco: «Se gli è pure così, vuolsi veder via, se noi sappiamo, di riaverlo.» «E che via potrei noi trovare?» «Per certo, egli non c'è venuto d'India niuno a torti il porco.» «Alcuno di questi tuoi vicini deve essere stato.» «E perciò, se tu gli potessi ragunare, io so fare la esperienza del pane e del formaggio e vedremmo di botto chi l'ha avuto.» «Sì, Ben farai con pane e con formaggio a certi gentilotti che c'ha d'attorno, che son certo che alcun di lor l'ha avuto, e avvederebbesi del fatto e non ci vorrebbe venire. Come è adunque da fare? Vorrebbesi fare con belle galle di gengiovo, e con bella vernaccia, e invitargli a bere. Essi non se il penserebbono e verrebbono, e così si possono benedicere le galle del gengiovo come il pane e il cacio. Per certo tu di il vero. E tu, Calandrino, che di? Vogliamo fare? Anzi, ve ne prego io, per l'amor di Dio, che se io sapessi pure chi l'ha avuto, si mi farebbe essere mezzo consolato. Or via. Io sono acconcio d'andare infine a Firenze per quelle cose in tuo servizio, se tu mi dai i denari. Aveva Calandrino forse 40 soldi, li quali egli gli diede. Bruno, andatosene a Firenze a un suo amico speziale, comperò una libra di belle galle e fecene far due di quelle del cane, le quali egli fece confettare in uno aloè patico fresco. Poscia fece dar loro le coverte del zucchero, come aveva l'altre, e per non ismarrirle o scambiarle, fece lor fare un certo segnaluzzo, per lo quale egli molto ben le conoscea. E comperato un fiasco d'una buona vernaccia, se ne tornò in villa a Calandrino e dissegli: farai che tu inviti domattina a ber con te con tutti coloro di cui tu hai sospetto. Egli è festa, ciascun verrà volentieri, e io farò stanotte insieme con Buffalmacco l'ancantagione sopra le galle e recherolleti domattina a casa. E per tuo amore io stesso le darò e farò e dirò ciò che fia da dire e da fare. Calandrino così fece. Ragunata dunque una buona brigata tra di giovani fiorentini, che per la villa erano, e di lavoratori, la mattina vegnente, dinanzi alla chiesa, intorno all'olmo, Bruno e Buffalmacco vennono con una scatola di galle e col fiasco del vino. E fatti stare costoro in cerchio, disse Bruno: signori, e mi vi convien dir la cagione perché voi siete qui, a ciò che se altro avvenisse che non vi piacesse, voi non v'abbiate a ramaricar di me. A Calandrin, che qui è, fu iernotte tolto un suo bel porco, né sa trovare chi avuto se l'abbia. E perciò che altri che alcun di noi che qui siamo non gliele dee poter aver tolto, esso, per ritrovar chi ha avuto là, vi dà a mangiare queste galle una per uno e bere. E infino da ora sappiate che chi ha avuto avrà il porco non potrà mandar giù la galla, anzi gli parrà più amara che veleno e sputeralla. E perciò, anziché questa vergogna gli sia fatta in presenza di tanti, è forse meglio che quel cotale che ha avuto l'avesse in penitenza il dica al sere, e io mi rimarrò di questo fatto. Ciascun che v'era disse che ne voleva volentieri mangiare, perché Bruno, ordinatigli e messo Calandrino tra loro, cominciatosi all'un de capi, cominciò a dare a ciascun la sua. E, come fu per me Calandrino, presa una delle canine, gliele pose in mano. Calandrino prestamente la si gittò in bocca e cominciò a masticare. Ma sì tosto, come la lingua sentì l'aloè, così Calandrino, non potendo la maritudine sostenere, la sputò fuori. Quivi ciascun guatava nel viso l'un all'altro, per vedere chi la sua sputasse. E non avendo Bruno ancor compiuto di darle, non facendo sembiante d'intendere a ciò, s'udì dir dietro. Ehi, a Calandrino, che vuol dire questo? Perché, prestamente rivolto e veduto che Calandrino la sua aveva sputata, disse: aspettati, forse che alcuna altra cosa gliene fece sputare. Tenne un'altra. E presa la seconda, gliele mise in bocca e fornì di dare l'altre che a dare avea. Calandrino, se la prima le era paruta amara, questa gli parve amarissima. Ma pur vergognandosi di sputarla, alquanto masticandola, la tenne in bocca. E tenendola, cominciò a gittar le lacrime che parevano nocciole, si erano grosse. E ultimamente, non potendo più, la gittò fuori come la prima aveva fatto. Buffa il macco faceva dar bere alla brigata e Bruno, li quali, insieme con gli altri, questo vedendo, tutti dissero che per certo Calandrino se l'aveva involato egli stesso, e furon bene di quelli che aspramente il ripresero. Ma pur, poiché partiti si furono, rimasi Bruno e Buffalmacco con Calandrino, l'incominciò Buffalmacco a dire: io l'aveva per lo certo, tuttavia, che tu te l'avevi avuto tu, e a noi volevi mostrare che ti fosse stato involato per non darci una volta bere dei denari che tu n'avesti. Calandrino, il quale ancora non aveva sputata la maritudine dello Aloè, incominciò a giurare che egli avuto non l'avea. Disse Buffalmacco: Ma che n'avesti, sozio, alla buona fe? Avestine sei? Calandrino, udendo questo, si incominciò a disperare, a cui Brun disse: intendi sanamente, Calandrino, che egli fu tale nella brigata che con noi mangiò e bevé, che mi disse che tu avevi quinci su una giovinetta che tu tenevi a tua posta e davile ciò che tu potevi rimedire, e che egli aveva per certo che tu l'avevi mandato questo porco. Tu sì hai apparato a esser beffardo. Tu ci menasti una volta giù per lo Mugnone raccogliendo pietre nere, e quando tu ci avesti messi in galea senza biscotto e tu te ne venisti e poscia ci volevi far credere che tu l'avessi trovata, e ora similmente ti credi co tuoi giuramenti far credere altresì che il porco che tu hai donato, ovver venduto, ti sia stato involato. Noi sì siamo usi delle tue beffe e conosciamle. Tu non ce ne potresti far più, e perciò, a dirti il vero, noi ci abbiamo durata fatica in far l'arte, perché noi intendiamo che tu ci doni due paia di capponi, se non che noi diremo a Monna Tessa ogni cosa. Calandrino, vedendo che creduto non gli era, parendogli avere assai dolore, non volendo anche il riscaldamento della moglie, diede a costoro due paia di capponi, li quali, avendo essi salato il porco, portatisene a Firenze, lasciaron Calandrino col danno e con le beffe. Glossario. Fannolo ricomperare, se egli non vuole. Ricomperare. Il verbo ha il senso di riscattare, pagare la taglia. Poscia, ce il goderemo qui insieme col domine. Col domine. La parola indica il prete, dal latino dominum, da cui donno. E infine la riduzione don usata davanti a nome proprio. Non lasci pagare a lui nulla. Egli si ciurmerà. Si ciurmerà. L'espressione significa si ubriacherà. Il verbo ciurmare equivale al francese charmer, deriva dal latino carminare, ovvero fare incantesimi. Come cenato è però, presi i loro argomenti per entrare in casa. Argomenti. La parola significa qui arnesi, ordigni. Se lei mi pur crede, io non avrò uguanno pace con lei. Uguanno. L'espressione significa letteralmente quest'anno, dal latino hoc anno. In sostanza significa mai più. Se tu gli potessi ragunare, io so fare la esperienza del pane e del formaggio e vedremmo di botte. La esperienza del pane e del formaggio. L'espressione allude a una forma di sortilegio che consisteva nel dar da mangiare al presunto ladro pezzi di pane e formaggio muniti di determinati segni e benedetti. Se non riusciva a inghiottirli, era considerato colpevole. Debbe si fare con delle galle di gengiovo e con bella vernaccia e invitargli a... Gengiovo. Il termine indica lo zenzero. È voce che in varie forme deriva dal latino medievale zingiberi, di origine orientale. Fece confettare in uno aloè patico fresco. Patico. L'aggettivo equivale a epatico, buono per la cura del fegato. Quando tu ci avesti messi in galea senza biscotto e tu te ne venisti... Messi in galea senza biscotto. L'espressione equivale a dire messi in una condizione difficile, cioè, secondo il significato letterale, imbarcati senza provviste. Non volendo anche il riscaldamento della moglie... Il riscaldamento. Il termine vale per rabbuffo, rimprovero. Le novelle di Calandrino rappresentano, come è stato persuasivamente rilevato, diversi atti di un unico grande spettacolo, la cui unitarietà non è ovviamente data solo dalla identità del protagonista, dei personaggi principali e dei luoghi, ma anche da una forte continuità strutturale e linguistica. Si tratta di un teatro di parola, all'interno del quale, tuttavia, si aprono improvvisi squarci visivi tutti affidati al gesto e alla mimica. Nella novella dell'Elitropia, ad esempio, come dimenticare Calandrino saltellante che, dovunque alcuna pietra nera vedeva, si gittava e quella ricogliendo si metteva in seno. In questa novella della beffa del porco involato, resta particolarmente impresso nella memoria il viso contratto di Calandrino, che tenta di non sputare la pillola amarissima preparatagli da Bruno, ma, tenendola, cominciò a gittar lacrime che parevano nocciole, sì eran grosse. Quella pillola era una galla di quelle del cane, che Bruno fece confettare in uno aloè patico fresco, cioè una pallottola di zenzero canino preparata con succo di aloè epatico appena spremuto. Si tratta di ingredienti ampiamente sfruttati dalla farmacopea medievale, le cui denominazioni erano comunque oscillanti. Ad esempio zenzero, che è voce orientale, giuntaci attraverso il greco, e già resa in latino in vari modi, zinziber e zingiber, compare in volgare per lo più come zenzero, ma anche nella forma qui attestata, gengiovo. Quanto a patico, non si tratta di una deformazione del boccaccio. La forma aferetica, cioè priva della vocale iniziale, si trova già in latino. Non dobbiamo poi meravigliarci che sia l'unica registrata dalla prima Crusca, che cita il solo esempio decameroniano. Quanto all'espressione «quelle del cane», se è abbastanza convincente la spiegazione recentemente datane, e cioè pastiglie di zenzero canino, non si può escludere del tutto che il boccaccio si riferisse invece, come pensavano i vecchi commentatori, a un ingrediente largamente sfruttato ai suoi tempi dalla farmacopea, e cioè allo sterco di cane.